Benvenuti e benvenute a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Siete sintonizzati sulle 87.9 in FM. Ci potete ascoltare anche in streaming attraverso il sito della radio www.ondarossa.info. Un saluto di cuore va a tutti coloro e a tutte coloro sono private della loro libertà personale in questo momento. Oggi Tracce di Cinema è all'insegna del disimpegno, della insostenibile pesantezza che, se la vita ci obbliga a sostenere, la nostra intelligenza e il nostro spirito di sopravvivenza ci fanno indugiare nel farci stare leggeri, e invece di affogare, facendoci una sonora risata, riaffioriamo dai flutti incostanti e pesanti della vita, perché ciò che ci rende tristi ha sempre un lato comico e divertente, ed è proprio quella l'ancora di salvezza con la quale possiamo beffarci del destino avverso. E dunque oggi ci affidiamo a questo pensiero e alle parole di un santo. Ebbene sì, di un santo. Che dovete fare? Oggi so così, so religiosa, so sta cosa da suorina della radio. E il santo dice, in un attimo di lucidità: nutre la mente solo ciò che la rallegra. Ed è questo che farò oggi la colonna sonora della nostra trasmissione e il film di Tracce di Cinema, che è, sempre meglio che lavorare, The Pills. I believe that you're the lady I'm looking for. Non so di che cosa sta parlando. Please, why don't you do business with me? Io credo che mi sta scambiando per qualcun altro. Io non la capisco. I was told that the lady I was meeting is very careful. I am very careful as well. You should give me a chance. Le ripeto che non posso proprio assolutamente dargli la ricetta del pollo alla romana. È una cosa che non posso. A me mi dispiace, però è proprio necessario, non posso dargliela. Yeah. E questi erano i 40 Winks con il brano Way Out. Questa è una stiamo ascoltando la colonna sonora di È sempre meglio che lavorare. E The Pills. E praticamente ci sono molti gruppi emergenti, più che altro fra Roma e romani, ma anche qualche bolognese. E ad esempio i 40 Winks che abbiamo appena ascoltato, un gruppo bolognese rock and roll punk con sonorità alla Britpop, diciamo, che hanno già fatto 4 album, quindi non così emergenti. E quindi andiamo avanti con l'ascolto. Sì, i nostri eroi sono Matteo Corradini, Luigi Di Capua e Luca Vecchi, che è il regista di The Pills, Sempre meglio che lavorare. Poi ci sono degli special guest, mi ha colpito, io il film ancora non l'ho visto ma andrò presto a vederlo perché ho amato tantissimo i loro sketch su internet, su YouTube. Giancarlo Esposito, il Gus Fring della serie TV di Breaking Bad, mi sono stupita, io ho visto tutte le puntate di Breaking Bad, sono una fan, me lo sognavo la notte. E poi tanti altri, insomma, Francesca Reggiani, Gianni Morandi, sì, è veramente, veramente figo. Beh, poi insomma ne parleremo anche con loro del film, anzi con Luca, che sarà nostro ospite. Mi divertiva molto questa cosa, David, della colonna sonora, che poi magari ne parleremo anche con Luca, del fatto che insomma ci sono capitati, e loro hanno scelto tutta una serie di artisti romani che fanno parte probabilmente della loro vita, della loro immaginario, della loro storia anche musicale, chissà, no? Eh sì. Ciao Siri, chiami Gianni. Chiamo Gianni. Rosetta, ciao bella. Gianni mio bello, senti, ho bisogno di un consiglio per come gestire i social, e tu in questo sei un grande, un king. Qual è il segreto? Sono contento che tu mi abbia chiamato per risolvere questo problema, ma io non credo che esistano strategie particolari, almeno io non penso proprio. L'unica cosa che posso dirti è che la banalità batte sempre l'odio. Gianni, sei grande, ti amo. E questo è il gruppo romano De Giornalisti con il brano Promiscuità. È un gruppo che si forma a Roma nel 2009, si autoproducono i primi due dischi, nati e scritti nel salotto di casa. A settembre del 2011. Come spesso succede ai gruppi che iniziano a creare la loro musica, no? Sì, è proprio un classico. Si fa a casa. E nel 2011 esce il primo disco, volume 1, qualche mese più tardi il disco si chiama Vecchio, e poi più tardi nel 2013 un altro disco si chiama Fuori Campo. Di che parla questo brano? Di una scena, di un'orgia praticamente? Sì, la promiscuità è proprio la storia di una nottata di sesso collettivo presumibilmente vissuta dal suo autore, fa parte dell'album Fuori Campo del 2014 e Tommaso Paradiso, che è il leader di questo gruppo, il cantante. Sì, è il cantante e lui è anche un paroliere, insomma un autore abbastanza bravo secondo me. Io poi sono una fan di Luca Carboni, è proprio lui che ha scritto l'ultimo pezzo di Luca Carboni che ha avuto un grandissimo successo, che si chiama Luca lo stesso, e secondo me è anche molto bello. È come se tutto sto non fa niente tutto il giorno non mi desse la gioia e la serenità di prima. Le mani mi prudono le mano. Non mi diverto più. Ho sempre pensato che la mia vita sarebbe stata lineare, tranquilla, sotto il mio controllo. Con gli amici intorno, con la mia famiglia, mio padre. Lo sai che mi ha regalato mia madre per Natale? Una crema antirughe. Fino all'anno scorso mi regalava i Lego e quest'anno la crema antirughe. Ma a me poi, che non ne ho minimamente bisogno. Mio padre era sbroccato, è impazzito. Adesso non riesco più a farmi le canne, te rendi conto? Poi dall'altro c'hai anche bisogno della crema antibrufoli al massimo, le brutte, visto che sono in piena tempesta ormonale. Secondo lei io sto perdendo i capelli? Thank you. stiamo ascoltando la colonna sonora di Sempre meglio che lavorare dei Pills. E questo è un musicista romano, si chiama Wrong on You, il brano Rodeo. Wrong on You è lo pseudonimo di Marco Zitelli, fa musica folk. E ha una bellissima voce. Lui è innamorato di Justin Vernon, che sinceramente nella mia ignoranza non conosco. Lui mette i suoi brani un po' di anni fa su SoundCloud e vengono sentiti per caso da un professore di sound technology dell'università di Oxford, il quale lo invita a registrare dei brani nel recording studio dell'università di Oxford, stessi recording studios dove hanno cominciato i Radiohead. Una particolarità di questo brano si chiama Rodeo. Marco Zitelli, Wrong on You, lo compone pensando allo che è brutto sfruttare un animale, anche cavalcandolo per un rodeo, e dice che lui è cresciuto tra il Tuscolo e i pratoni del Vivaro e il rapporto con alcuni animali è stato molto importante per lui. Dovremmo monetizzare questo nostro grande amore con dei video virali o dei post svergognati da 7000 mi piace, io e te sponsorizzati, venduti a decine di migliaia di euro ai brand. Tu immagina i bond di questo nostro grande amore in base al tuo tasso di interesse per me, tiene più dell'America, più della Goldman Sachs, regge più della Cina, di Shenzhen e Shanghai. E non ha lunedì nero, non conosce default, senza banche centrali, senza WTO. Non ha lunedì nero, non conosce default, senza banche centrali, senza WTO. Dovremmo monetizzare questo nostro grande amore, prendendo l'ispirazione da questo nostro grande amore, per un libro, una serie oppure un film commerciale, in 402 sale, la vigilia di Natale, potremmo vivere anche solo dei diritti SIAE. Oppure immagina i bond di questo nostro grande amore, con tutto l'investimento che ho per te, che tiene più dell'America, più della Goldman Sachs, c'è più della Cina, di Shenzhen e Shanghai. E non ha lunedì nero, non conosce default, senza banche centrali, senza WTO. Non ha lunedì nero, non conosce default, senza banche centrali, senza WTO. Dovremmo monetizzare questo nostro grande amore, questo nostro grande amore. E questo nostro grande amore abbiamo ascoltato di Niccolò Contessa, alias I Cani, e non è la prima volta che ascoltiamo I Cani, e l'abbiamo ascoltato all'altra puntata, e La felicità un sistema complesso contiene un brano. Sì, è proprio Niccolò Contessa aveva proprio curato la colonna sonora del film di Zanasi, e forse io sono anche un po' ammaliata da questo, perché la colonna sonora del film La felicità è un sistema complesso è davvero molto bella, a me molto è piaciuta bella, tantissimo, sì. E, ho messo un sacco di pezzi nel mio telefono e quindi mi sono innamorata anche di Niccolò Contessa, che ho iniziato ad ascoltare perché non lo conoscevo. È un musicista romano, ne abbiamo già parlato, nel 2010 inizia la sua storia musicale attraverso YouTube, pubblica delle canzoni e poi esce con un album che si intitola Il sorprendente album d'esordio dei Cani, e nel 2013 diventa molto importante nel panorama della nuova musica italiana. I due brani vengono annunciati dal commerciale Alessandro Cattelan e poi messi su YouTube, e che naturalmente potete immaginare, insomma, lo spazio, insomma, che attraverso il quale vengono pubblicizzati, quindi insomma diventano famosissimi. Però i due brani sono molto belli, il titolo sono Soldato e Il posto più freddo, vi consiglio di ascoltarli. E nasce così il nuovo album Aurora, da cui poi è tratta anche questo pezzo di Contessa. Volevo dire che effettivamente magari uno lo ascolta così e sembra che questi testi siano anche un po' leggeri o superficiali, che non abbiano un vero e proprio significato, ma in realtà lui è un grande musicista, un grande conoscitore della musica, una persona che conosce profondamente la storia della musica italiana, ma di tutta la musica internazionale, e che ha iniziato da giovanissimo a appassionarsi a questa. E quindi, insomma, attraverso varie cose che ho letto su di lui, interviste che ho ascoltato, trovo che sia una personalità veramente interessante nel panorama italiano musicale nuovo. Poi insomma si può condividere o no la profondità dei testi, oppure insomma il valore che si hanno, se siano commerciali oppure no, però secondo me lui è proprio un grande, è proprio uno che non te la manda a dire e sa dove vuole andare a parare, quindi bravissimo Niccolò Contessa, secondo me. Pazzi, noi ogni sfida e ogni difficoltà abbiamo promesso che non l'avremmo affrontata, e non l'avremmo affrontata insieme, capito? Adesso io non posso permettere che un amico così da un momento all'altro decida di riprendere in mano la sua vita, capito? Mentre io mi sto grattando le palle sul divano, capito? E questo è un problema, perché poi io mi sento in colpa, capito? Io mi sento in colpa, e se io mi sento in colpa, sai perché succede? Che devo affrontare la vita anche io, e a me di affrontare la vita non mi va, a me non mi va, non mi va di andare a lavorare, non mi va di mettere la sveglia alle 7:30, capito? Perché una vita con la sveglia alle 7:30 è una vita che non vale la pena di essere vissuta, hai capito, sì o no? Senza manco provarci. Col rischio di fallire. Ma col cazzo, io non ci voglio manco provare. Hoodies and tin boots. This is the aftermath. Beat is pure wrath. guitars might have been played by the homie Slash. Life is good when you on top of the game. So foolish, I might drop the top in the rain. I might cop the range and kiss it with candy paint. That's a house to you, but to us it's loose change. Look me in the eyes, I am not afraid. I'm just living the dream, the shoes are really suede. And I'm already made, and I'm already paid. I ain't even broke the sweat, I can do this all day. This hustling's hard, but I'm used to it. Under the motto, still no pain. We push until the sun comes up, baby. We get it in the pouring rain. I won't stop until my heart stops. They gon' have to force me in the grave. Until that day, there's no sleep for me. I want the world to know my name. This hustling's hard, but I'm used to it. Under the motto, still no pain. We push until the sun comes up, baby. We get it in the pouring rain. I won't stop until my heart stops. They gon' have to force me in the grave. Until that day, there's no sleep for me. I want the world to know my name. E abbiamo ascoltato Know My Name di Derek Lowers, di cui non ho trovato proprio niente su internet, se non forse che sta su un promo di un videogioco della Play o qualcosa del genere. Luca, intanto benvenuto a Tracce di Cinema, ci sei? No, ma volevo sapere qual è il videogioco della Play. No, dici tu da dove proviene questo brano, che noi non siamo riusciti a trovare nulla. Io purtroppo ho accannato la pratica da videogiocatore da un bel po', perché non c'ho tempo di farlo, perché sceglierei volentieri una realtà alternativa a quella che viviamo giornalmente, però non me lo posso permettere. Qual è sto videogioco? Assassin's Creed. Che? Te l'ha detto. Assassin's Creed. Ah, ok. Noi pensavamo che fosse una cosa della quale voi sulla quale voi vi dilettavate nelle vostre giornate di nulla. Ammazza, non facevo una canzone da Assassin's Creed, lo sapete? Perché mi sembra una cosa. Ma come l'avete tirata fuori? Scusami. Aspetta, Luca. Continuano a premere dei tasti, mi arrivano delle scosse nell'orecchio. Che cosa? Non ti sento. No, dimmi un po'. Dicevo, da che cosa l'avete tirata fuori? Da che cosa l'avete tirato fuori questo pezzo? Visto che non è un pezzo che viene fuori da un vostro giochetto con il quale vi allietate i vostri pomeriggi di dolce far niente. Ma quali? Questo che abbiamo sentito? No, non lo so. Chi l'ha messo in mezzo? Non sono stato io. So che la colonna sonora l'ha curata, credo, qualcuno che conosci, Federico. Ma non la sapevo sta cosa, Dai, Luca, non fare davvero. Così, per favore, aiutami. Chi ha curato la colonna sonora di The Pills? Dimmelo. Federico. Continuano a premere dei tasti, quindi non ti sento. Cioè, è prigioniero dei tasti, Luca, devi capire questo. Ma chi è soffrano con l'orecchio i tasti? Sono io, ve lo giuro. Oh, Luca, intanto ben ritrovato su queste frequenze. Ecco, ha trovato Federico Bisozzi, lo conosci? Federico Bisozzi, ma gira, è il musico del film. È il musico. Ah, appunto, sarà stato lui quindi a metterla a sto pezzo? Sì, penso. Ma poi chiediamoglielo, allora, perché guarda che è una domanda che ti potrebbero fare anche altre radio, anche altre persone. Allora chiederò delucidazioni. Beh, sì, insomma, preparati. Senti, Luca, è una colonna sonora che, come mi dicono qui David e Ottavia, si muove tra Roma e un po' di Bologna. Tu in questo hai avuto un qualche peso rispetto alle musiche? Mi pare di no. Ma per che cosa? Per il film? No? Per il film, certo. Cosa stiamo parlando? Non capisco. Scusate, oggi sono confuso, però vi assicuro che non ho fatto after. Allora, dobbiamo anche premettere che Luca è convalescente. Io sono convalescente, sono reduce, sono revenant. Ha fatto la guerra, Luca. Ho fatto, sì, sono stato stuprato da un orso. Tra l'altro, a visionare la trasmissione di cinema l'altra settimana ho sentito Matteo e loro, Matteo, Luigi, se la stavano giocando molto la tua morte per fare bene un'uscita come si deve e fare tanti soldi sul film, no? Sì, infatti il film è andato male perché non sono morto, perché non me la sentivo. Senti, intanto è passata una settimana, che ci dici? una settimana da quando? Da quando è uscito? Come sta andando, Luca? No, è uscito da 3 settimane, ora lo stanno a togliere, lo stanno debellando come la peste, la febbre gialla, perché non incassa. Non incassa? Beh, c'è Checco Zalone. Cassa tutto lui. Il milioncino ce lo poteva dare Checco Zalone, invece non, senza pietà proprio. Vabbè, ma siamo della stessa scuderia, quindi non me permetterai mai. Guarda, oggi sono così un po' santa, parlo soltanto di cose bibliche. Gli ultimi saranno i primi? Sì, se i primi sono irraggiungibili, no, come era Frankie Energy, no, gli ultimi saranno gli ultimi e basta, è fine. No, ma voi invece siete stati bravissimi. Io ho il film, stavo dicendo all'inizio che non l'ho ancora visto, non ho avuto tempo. Come non l'hai visto? No, ancora non l'ho visto. Però ho visto praticamente tutte le vostre. Passami l'altro. Aspetta, però ho visto tutte, quasi tutte le vostre, i vostri sketch su YouTube, che sono esilaranti, veramente geniali. Mi sono piaciuti tantissimo. Bravi, infatti, proprio bravi. Proprio bravi. Proprio bravi. Grazie, e c'ho un po' grazie. Di domande da farvi, da farti, anzi. Dammi del voi. Sì, sì, del voi. Mi piace tanto. Sì, beh, piace anche tanto. Perché mi sento un po' in soggezione, sì. Avendo di fronte un autore così, insomma. Insomma, un importante, maestro. Ecco. Lo puoi lasciare, c'ho la pashmina adesso. Cioè, quella cosa che si mettono i registi, quel cashcol bianco, sei seduto sulla sedia? Sì, sì, ah. Sì, una kefia. Fighissimo. Dimmi. No, ma io invece volevo sapere, siete secondo me dei talenti fuori discussione, siete esilaranti, le gag su YouTube sono fighissime, e, nonostante l'ilarità e le suggestioni surreali, siete riusciti nell'impresa che vi ha accompagnato, cioè il fatto che insomma queste gag vi hanno fatto fare un film e vi hanno fatto mettere intorno a un tavolo in pace e senza più ossessione, vi siete goduti l'idea di creare qualcosa che aveva più che una struttura, diciamo, YouTuber, ecco. Com'è andata? È stato un battesimo del fuoco. Questa l'ho letta in varie interviste, dimmene un'altra. Tutto sommato, ripeti sempre la stessa cosa. Dai, siamo a Radio Onda Rossa, sì, originale. È stato bello, è stato istruttivo, è stata un'esperienza bellissima. No, ma com'è andata? Scusami, ma io sono così un po' enfatica quando parlo in radio, quando faccio interviste. Federico mi strilla sempre perché dice che parlo sugli altri, ed è vero, mi scuso di questo, anche con gli ascoltatori e soprattutto intervisti da sola. Sì, esatto, faccio tutto per conto mio. No, perché io immagino che figata, cazzo, facciamo un film, oh, ce l'hanno i sordi, da paura, Pietro Valsecchi, mamma mia, lo mettiamo insieme, come lo organizziamo, come è andata questa cosa, perché l'avete sceneggiato tutti insieme. Molti vedono tipo il cinema come tipo ho vinto tipo il super enalotto, cioè no, in realtà no, perché stai spendendo dei soldi e quindi l'ansia è molta. Poi a Roma non si può fare niente, non puoi riprendere tipo la stazione Termine, non puoi riprendere l'autobus, non puoi riprendere l'aereo, non puoi riprendere un cazzo, non puoi mettere i piedi dentro le fontane, non puoi fare niente, quindi è tutto difficile. Devi attingere dall'abilità, della magia del cinema, di fare le cose, però invece non sono successe veramente, capito? Queste cose un po' così. Sì, ho capito. Sì, però insomma cercavo di capire insomma come fosse andata la costruzione del film tra di voi, cioè partendo da quelle piccole cose per un anno internet. E mezzo, cioè, comunque sia stato scritto e riscritto, e forse quella è stata la parte più lunga, la gestazione più lunga è stata proprio quella della scrittura e della pianificazione, no? Poi le riprese, cioè come si dice, quando arriva alle riprese il film è quasi finito, no? Perché è soltanto una messa in pratica che dura poco, sei trotta. Sì. Ed era la tua prima esperienza come regista? Come regista di lungo, sì. Forse anche l'ultima. Sì, sicuramente l'ultima. No, dai, non è possibile, siete stati bravissimi, sono sicura. Sei stato bravissimo. No, sicuramente l'ultima. Infatti adesso dovrò scegliere cosa fare da grado. Adesso basta. Adesso ti tocca lavorare. Adesso mamma mi ha detto, adesso devi scegliere una strada, basta con queste cazzate e vai a lavorare, giustamente. No, mi fa tristezza il fatto che molte persone hanno detto: ah, ma brutti stronzi, cioè tipo, ah, non sapete che cosa vuol dire il lavoro. Ma io vi posso assicurare tipo che una convocazione col piano di lavorazione alle 5 di mattina, cioè manco i frati trappisti, regà, cioè svegliarsi alle 5 di, cioè non è che il macchinista arriva alle 5 di mattina e il regista poi arriva tipo alle 2, no, cioè, no. Vi siete fregati con le mani vostre, vi siete fregati. Sì, se siamo un po' inculati da soli, sì. Cioè, fare un film è tosta, è dura, poi un film costa, poi la gente non sa tipo quanto deve incassare un film per rientrare dei costi di produzione. Cioè, quando mia nonna mi ha detto: come va il film? Io ho fatto: no, de merda, non sta incassando niente. Ma perché, quanto incassato? 400.000 euro, ma sono un sacco di soldi. No, non è un cazzo. Cioè, un film costa tipo un'opera prima, costa 1.500.000, 2 milioni di euro. Cioè, prima di rientrarne, insomma, e basta. Comunque arrivarci è una grande soddisfazione, insomma, no? È un cammino per molte persone, un cammino lunghissimo che non arriva quasi mai alla fine per tantissimi appassionati di cinema, per insomma gente che ci lavora da tanto con passione, insomma. Quindi siete arrivati già a un buon risultato, insomma, dovete essere fieri di voi stessi. Da poco, cioè. Sono tornato a scuola, cioè, no, il fatto è che ho fatto il cinema TV, cioè comunque sì, mi è sempre interessata la pratica, mi sono laureato a dispetto di molte in che cosa? Che pensano, beh, in cinema, cioè comunque sia in discipline delle arti della musica e dello spettacolo, storia, scienze e tecniche della musica e dello spettacolo, magistrale 110, cioè non è che vengo dalla montagna del sapone, come e si poi mettere in piedi però, cioè, lo studio con la pratica è roba seria, è roba più difficile. No, perché no? Vero del culo, capito? Perché alla fine di un percorso, cioè in Italia arrivi alla fine di un percorso di studi e poi magari ti devi mettere a fa altro. Invece, cioè, io mi sono impuntato, ho detto: no, che cazzo, cioè, ho fatto spendere i soldi alla mia famiglia per fa quello, adesso devo fa per forza quello. Cioè, non esiste né in cielo né in terra che vado a fa tipo un'altra cosa. No. Bene, Luca, secondo me è l'inizio di una grande carriera, perché è l'inizio della fine. No, assolutamente. Ti ripeto, il film non l'ho visto, non ho avuto ancora il piacere, ma lo andrò a vedere prestissimo. No, l'hanno tolto dalle sale. Stasera mo, vado a vedere lo streaming brutto su Cineblog. Vado stasera con 10 amici. Va bene, eh? Bastano? 10 dai, amici? No, pace, corri, dai, prima che lo levano pure dall'ultimo dei cinema sfigati, vai, corri a vederlo, sì, così sì. Mi dici che ne pensi. Sì, sì, volentieri, volentieri, ma sono sicura che ne penserò bene, perché comunque se il buongiorno si vede dal mattino, questo è sicuramente un buongiorno e il mattino è stupendo. Tra l'altro, il buongiorno si vede dal mattino, questo è il mattino della fine del mondo, praticamente. Esatto. Quello che è successo di World Winter. Questo è l'Armageddon. No, tra l'altro Matteo oggi per esempio non è potuto venire perché sta girando per festival, e questo vuol dire comunque una certa attenzione. Matteo sta girando per festival, sì, vabbè, ma è andato tipo, che ne so, al festival al Terminillo Film Festival. No, per nulla diminuire, cioè, sicuramente non è che sia andato tipo al Sundance Film Festival o al Festival de Cannes sulla Croisette, capito? Lui ha fatto: no, scusate, devo andare a fare un photocall. Se n'è andato. Un carpet. Senti, tornando Luca alla musica, veramente voi tre non avete avuto niente a che fare? È stata scelta tutta da altri o cosa? No, è stata scelta dal regista. No, è stata scelta fra di noi, cioè comunque ci siamo consultati. Molte scelte di brani tipo Calcutta, I Cani, cose così, comunque sia volevamo delle persone che rappresentassero il progetto e fossero simili a noi in termini di vedute artisticamente parlando. In questo siamo, credo che ci siamo riusciti, insomma, a trovare una quadra. Ecco, come dicevo all'inizio, molta Roma e qualcosa a Bologna, sono tutti vostre conoscenze, gusti personali, qual è stata la miscela? Sì, gusti personali, conoscenze, alcuni li abbiamo conosciuti in itinere, cioè facendo il film abbiamo ascoltato delle tracce che erano ancora inedite allora, insomma ci siamo ritrovati, ecco, con dei giornalisti, con Calcutta, con I Cani. Il brano dei giornalisti, dei giornalisti mi è piaciuto tantissimo, Promiscuità, lo trovo bellissimo. È molto figo, considera che doveva essere anche un inedito durante la scena finale in bicicletta, che tu sicuramente avevi visto, doveva esserci un brano inedito dei giornalisti, che è molto, molto figo, però purtroppo non abbiamo trovato un accordo perché esce troppo in là il CD, e purtroppo abbiamo perso questa occasione. Però ne abbiamo guadagnato con un ragazzo di un gruppo che si chiama Prongo New, che è molto bello, fantastico, una voce straordinaria. Esatto, sì. No. Sembra un po' Bon Iver, molto figo. Senti, sì, una delle note positive è che al cinema si sente poco musica italiana e ancor meno romana in questo caso. No, al cinema si sente poco, cioè si sente poco proprio perché abbassano le casse gli esercenti, mortacci loro, e non vogliono consumare le casse della Bose, capito? E allora abbassano tipo ammettono a 5 quando dovrebbero mettere a 7 per non consumare le casse. Infatti si sente anche, cioè lavoro tipo mezzo penalizzato, vabbè, queste sono mi sembra invece una considerazione importante, perché insomma la fruizione perché comunque il fonico ci ha lavorato, ha fatto le musiche, i brani, e poi si sente tutto di meno, un po' una rosicata, ecco. Senti Luca, noi chiediamo sempre ai nostri ospiti della settimana l'amore che hanno per qualche colonna sonora in particolare, perché noi in genere ogni trasmissione trattiamo un film, a volte andiamo per filoni, a volte invece quasi sempre un singolo film la cui colonna sonora ci è piaciuta a tutti. Tu hai dei film che hai amato particolarmente proprio per le musiche? E in realtà la colonna sonora pregiudica un po' il giudizio nei confronti del film, perché è un film che si rispetti, un vero capolavoro, cioè una colonna sonora da paura, non è ineccepibile proprio come Drive, c'è una colonna sonora da paura, e anche Vanilla Sky c'è una colonna sonora da paura. Vanilla Sky infatti l'abbiamo fatto. L'avete già fatto? L'abbiamo già detto? Fatto, yes. Sì, Drive no, però Drive è interessante, molto sì. Figo. Drive è interessante, anche perché c'è tutto questo mood anni 80, filo 80, tutto synth. Vai, andiamo di Drive. Andiamo di Drive, ce lo segniamo per una delle prossime. Senti Luca, secondo me siete dei grandi, continuate così, dacci dentro, non mollate, fregatevene degli incassi e continuate a lavorare, perché siete un bel team. Ma tanto che me frega che i tordi ci ho messi io. Ma tanto li ha messi Valsecchi sti cazzi. Voi tanto li avete presi i soldi, no? Sti cazzi, se poi fino a lavorato li fate con il prossimo, fate con un altro. Ma sì, dai, la prossima volta ce li metto io. Sì. Tra l'altro Luca, stiamo mettendo pure, ho trovato poi su YouTube parecchi audio e spezzoni di scene non incluse nel film, alcune sono veramente spassose. Ma c'è un sacco di roba tagliata dal film, sono un'altra mezz'ora, 40 minuti buoni di scene inedite. Speriamo che le mettano nel DVD, perché così almeno vanno da qualche parte. Qua ce la stiamo ridendo alla grande, anche gli ascoltatori mandano un sacco di messaggi, un sacco di cose, quindi comunque funziona per Radio Onda Rossa, grandi lettere minatorie, antrace, sti cazzi degli altri. Senti Luca, io ti vorrei chiedere un sacco di altre cose, ma magari ti telefono in privato. Va bene, dai, ti aspetto sulla mia linea, quella priva, il telefono rosso. Dai, il telefono rosso col presidente. Siete grandissimi, bravi. Un abbraccio, ciao, Luca, alla prossima. Ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ma mo già l'aborto questo. Ma cerca su TripAdvisor, no? Ah sì, l'altro giorno ho visto una gelateria a 3,5 stelle, manco il puffo c'aveva. Ma perché tu non lo sai usare? Devi super il naso ai pessimi e legge. E dai. Tipo, leggi sto parco giochi qua. Montagne russe da paura. Peccato che il ragazzino si è cacato sotto durante il giorno della morte. Una stella. Che errate. Oh, insomma, ce l'hai portata? Calcolate che mi hanno fatta per chiusa scuola. Avanti Matteo, svuota le tasche. Perché? No, non lo faccio. La settimana mi dai quello che è in tasca, altrimenti ci penso io e poi è peggio. Oh, ho 2 caramelle, è uso personale. Non si possono portare le caramelle a scuola e poi le dai agli altri. Sì, bravi, bravi, avete preso i criminali, mo. Intanto là fuori c'è sta gente che ruba i soldi della merenda. Ma lo sai che cosa si rischia con quella roba in tasca? 10 pagine di verbi e 4 ore di punizione. Ma pensa a fare il lavoro tuo, va? Che intanto là fuori è pieno di buche. L'altro giorno uno col triciclo si è sbucciato pure il ginocchio. Oh, non mi tocca, non mi tocca. Io a casa ci voglio tornare sano. Per chi erano quelle caramelle? Per nessuno, io non parlo. Fine in punizione. ACAB. Questo brano romanticone, forse il più romantico della colonna sonora di È sempre meglio che lavorare, di Pills, si chiama Every Day ed è composto da Laura Martelli ed Andrea Ferri. E Laura Martelli, Farri, scusate, e cantato da, interpretato da Laura Martelli, che inizia a suonare, a cantare già da, ballare e cantare già da giovanissima. E a 16 anni ottiene il primo contratto discografico, è anche stata VJ di Video Music, recita nel film Terra Bruciata del 99, nella cui colonna sonora vengono anche inserite due sue tracce. Sì, e invece Andrea Farri è un fico, Fede. È un fico, ha fatto una cifra di colonne sonore. E a 25 anni ha firmato la sua prima colonna sonora per il film Un gioco da ragazze di Matteo Rovere, e poi ha continuato proprio a palla, ha vinto il Globo d'Oro nel 2015 per il film di Cristina Comencini, Latin Lover, che a me non è piaciuto, però insomma va bene così. E poi ha fatto una cifra di colonne sonore, ve ne dico alcune. Allora, vabbè, non vi dico i titoli, vi dico i registi, che forse fa più scena. Alessandro Genovesi, poi Sidney Sibilla, Alessandro Piva, Paolo Ruffini, Matteo Rovere, Marco Tullio Giordana, Cristiano Bortone, di nuovo Cristina Comencini, Quando la notte, Roberto Faenza, Marco Pontecorvo, Stefano Pasetto, e poi ha curato le colonne sonore di quasi o tutte le varie serie di Squadra Antimafia, che vabbè, magari non è una cosa che è onorevole, però insomma hanno un sacco di, cioè, un sacco di gente le guarda. Io pure l'ho guardata qualche puntata così in passant, quando non riesco a dormire. E poi un sacco di altre serie TV. Alexis Witt, che è uno che va fortissimo alla televisione, è un regista che va fortissimo, non lo conosce? Ha fatto il tredicesimo apostolo, sempre perché sono un po' biblica oggi. Mamma mia. E vabbè, insomma, è uno forte, è quello, uno forte, è veramente bravo. Veramente bravo, è iniziato a 17 anni a lavorare componendo e suonando per il teatro e per la danza con Stefano Benni, Lucia Poli, Alessandro Preziosi, Jesus Stapalmi, Paolo Poli, Massimo Vermulli, Remo Remotti. Insomma, è uno forte, dai. Bravo. Matteo. Matteo. Io e tuo padre non siamo più ragazzini, c'è la crisi. I soldi non bastano. Da quando tuo padre ha cominciato con queste sue nuove passioni, non ha più lavorato. Ma vuoi lasciare di casa papà? Ma no! Tu te ne devi andare. Ma come? Ma se mia madre non me lo dici così, ma che modo è? Ma dimmelo in maniera più carina, che ne so, veramente. Te ne devi andare. Ma che è uno scherzo? Ma che significa? Matteo, c'hai 30 anni. A parte che io ho quasi 30 anni. E poi quel cretino ce n'ha 60, ce n'ha il doppio di me, fa come gli pare, perché io me ne devo andare? Noi vogliamo affittare la tua stanza. Ma state scherzando, ovviamente. No, perché noi abbiamo una certa età e al contrario tu... Io cosa? Io che? Cosa? Potresti andare a lavorare. Lo sai che mi dà fastidio sentir parlare di lavoro, lo sai benissimo. Io ve lascio da soli, io me ne vado. Qua voi vattene di casa, ma come ve permettete? Brava! Brava! Adesso vai dalle tue amiche e dici no perché ho cacciato mio figlio di casa. Ma io vi denuncio. Io chiamo le guardie, io vi faccio buttare fuori da qua. Io chiamo il telefono azzurro. È sfruttamento minorile. Gabbio, senza di me, voi dove andate? Non è che mi cacciate di casa, me ne vado io, ve lascio da soli. Però c'hai 10 euro perché mi è finita la benzina, mi servirebbero. Grazie mille, sei gentilissima mamma. Io ve lascio da soli, poveracci, ciao, ciao! Tomorrow. È un altro gruppo, una musica tipicamente romana. Un altro gruppo romano, mezzo stornello. Bedtime for Charlie, e il brano si chiama Swim with the Sharks. Bedtime for Charlie, il gruppo è in realtà è Giacomo Gabrielli il cantante. Sì, fanno un genere punk rock, sono stati influenzati inizialmente dalla scena punk italiana. Nel 2005 Giacomo Gabrielli, che sa la voce al basso, Domenico Migliaccio, che sa alla batteria, e Sandro Domicinici alle chitarre, si uniscono a Alessio Morriconi, sempre alla chitarra, e iniziano a prendere tutto più seriamente dopo aver, insomma, registrato un po' di dischetti a casa, e iniziano a suonare in giro con 5 brani tratti dal loro primo LP Dog Tricks, che iniziano ad avere una discreta, insomma, piacciono, ecco, e addirittura riescono ad avere un'edizione speciale in Giappone. E nel 2007, nel bel mezzo dell'era di MySpace, la band autoproduce il primo LP ufficiale, che è Winnings is for Losers, 14 tracce velocissime con un indirizzo decisamente punk. E poi successivamente nel 2012 producono Bright Light City Skyline, che invece è fatto di 12 tracce intense dal timbro sempre punk rock, godibili, che gli confermano, insomma, che sono bravi e che piacciono al pubblico, fanno un sacco di tour, un sacco di concerti, e vengono prodotti da un'etichetta di tutto rispetto, che è la No Reason Records, e che lavora anche con altre band come Anti-Intellectual, Hot Spy, Red Hot Coil e altri. E insomma se la cavano e escono nel 2014 con un altro LP, Morning Wood, coprodotto da No Reason Records e da No Panic Records. Insomma, se la cavano. Ma te, caffè? Cialda o moca? Oh, voglio che mi spieghi che so tutti quei Mac dell'app. E niente, visto che stiamo in difficoltà economica, ho pensato ad affittare il salone e creare un co-working. Così posso lavorare sulle mie foto e sui progetti di graphic design. Ah, papà, ma te fino a una settimana fa non sapevi manco che era. E comunque mo scrivo pure per Vice. Per Vice? E te pagano? Stai sempre a pensare ai soldi, mi danno la visibilità. Giù, ci avrei da farti vedere delle cose di grafica per quell'amico tuo. Ah, Rosè, io ci lavoro con lui, mica posso far brutta figura, le due sono cose da ragazzini. Te faccio sapere. She glows. She glows. She glows. She glows. Glows on me. E avete ascoltato un altro brano, la colonna sonora di Sempre meglio che lavorare dei Pills. Questo era My Madonna di Dani Macchi. E qua siamo ai saluti, ragazzi. È finita la puntata di Tracce di Cinema, sono le 16.05. Qua sta per iniziare Attica Blues. Che meraviglia, che musica meravigliosa. Anche se ancora non è arrivato Pietro. I ragazzi di Attica proprio ci fanno sognare con le loro tracce stupende, una più bella dell'altra, e quindi noi vi lasciamo con le coordinate per sottoscrivere alla radio, che come sapete non versa in una buona situazione, ha bisogno di essere sostenuta. Questa è una radio libera dal 1977, non ha padroni, non ha pubblicità, non ha padrini politici, e viene e nasce e vive grazie soltanto a tutti voi che la sostenete e che la ascoltate, quindi prendetevene cura perché ne ha bisogno in questo momento. Il conto corrente postale per sottoscrivere è 6180-4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56-00185, Roma. Potete sottoscrivere alla radio anche tramite il sito internet della radio, che è www.ondarossa.info, cliccando sul pulsante sostieni. È facilissimo, basta avere una carta di credito e potete farlo tranquillamente. Inoltre vi ricordo che la Scarceranda è bellissima quest'anno ed è ancora qua, ci sono ancora delle copie, quindi venitela a prendere, e ci sono anche delle magliette molto belle con una bellissima grafica di una donna che urla con dei capelli ricci, è veramente molto bella. Vi consiglio di venirla a prendere perché ce ne sono anche di questa molte poche ancora a disposizione, costano solo 10 euro, quindi insomma ragazzi che vi devo dire, venite alla radio, anche perché venire agli studi di Radio Onda Rossa, comprare una maglietta, una Scarceranda o lasciare una sottoscrizione porta fortuna.